Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiremo oggi da alcune notizie che ci hanno particolarmente incuriosito sui giornali. Da un lato le difficoltà che ha Milano e in generale la Lombardia nel rilanciare opere infrastrutturali, e invece gli allarmi che vengono lanciati sul tema dell'infiltrazione ormai nota e strutturale purtroppo dell'andrangheta nell'Interland, nella cintura milanese. Lo faremo anche in occasione di un libro che è da poco uscito e l'autore, un collega, è Marco Alfieri. Sapete già che d'estate ogni tanto ci permettiamo anche di uscire leggermente dalla cronaca per farvi ascoltare degli approfondimenti sui temi, come ieri abbiamo fatto sulle banche, sulla nuova genia dei banchieri. Poi parleremo invece dei controlli della Guardia di Finanza. È un periodo in cui la Guardia di Finanza continua a diffondere comunicati sull'attività svolta, soprattutto per quello che riguarda il periodo estivo. Ce ne siamo occupati in settimana perché c'erano dei dati interessanti sui controlli effettuati sul trasferimento di soldi all'estero in maniera illecita, quindi l'evasione o l'elusione transfrontaliera, come la chiama la Guardia di Finanza, e mai tema fu più attuale, visto quello che vi abbiamo raccontato ieri dell'accordo tra UBS e il governo americano, oggi su tutti i giornali, definito, a mio avviso correttamente, epocale, perché è la fine, come già dicevamo ieri, di un'epoca nel servizio segreto, nel segreto bancario svizzero. Oggi invece la Guardia di Finanza pubblica dei dati relativi appunto ai controlli degli esercizi balneari, ristoranti, bar, pizzerie, ombrelloni, scoperti più di 70 evasori totali. L'obiezione di alcuni è: vanno bene questi controlli ma sono un po' pochi. Ne parleremo con i diretti interessati. Ancora citeremo alcuni dati apparentemente o forse anche realmente in contrapposizione. Il ricorso alla cassa integrazione, le stime ultime diffuse dal Centro Studi Confindustria da un lato, e dall'altro però il fatto che, come denunciato già da Unioncamere oggi dalla stessa Confartigianato, manchino all'appello più di 40.000 lavori per cui ci sarebbe un posto ma gli italiani non li vogliono fare. E questo, senza polemiche politiche, va anche a integrarsi in quell'analisi di due giorni fa della Banca d'Italia, che diceva in definitiva, nella maggior parte dei casi, tutte le occupazioni, le neoccupazioni svolte dagli extracomunitari, dagli immigrati, non hanno tolto lavoro agli italiani. 349-238-6666 per i vostri sms, come sempre le notizie in breve partendo dalla borsa. Borsa che mantiene il recupero e il tentativo di recupero grazie anche a Wall Street, sebbene l'aiuto non sia di quelli consistenti. L'America guadagna lo 0,4%. Adesso Parigi porta così il suo rialzo a 1,5% come Francoforte. Nasdaq ha più 0,7%, Londra anch'essa 1,5%, l'1,3% lo guadagna Milano su tutti gli indici. Bene di nuovo Buzzi Unicem più 5,6, Prismian più 3,60, Mondadori più 3,1, 3% il rialzo di Autogrill, il 2,3% quello di Telecom e Generali, ma anche Geox, ST Microelectronics, il 2% lo guadagna Alleanza e Finmeccanica, ma anche Tenaris e Fondiaria Sai. Tra chi perde c'è solo Snam, Rete Gas meno 0,40%, l'euro a quota 1,42,41. Dal petrolio, nuova fiammata, ha aperto a $72,5 al barile dopo essere stato per giorni sotto e ampiamente sotto i $70. Confermato la notizia di ieri sera, l'avete trovata su molti giornali, ma comunque vale la pena ricordarla, che il governo svizzero ha ceduto la propria quota in UBS. Era una quota importante, anche se senza diritti di voto, quasi il 10% del capitale, il 9,3%. E nel frattempo il governo svizzero, cedendo a 16,5 franchi ad azione a questa quota, ha incassato 1 miliardo e 200 milioni di franchi. Oggi c'è un'intervista a Nouriel Roubini sul quotidiano La Repubblica. Roubini è stato nostro ospite anche nel passato, l'uomo a cui tutti riconoscono di aver messo in guardia sulla crisi, sulla bolla, sul crack imminente della finanza globale, e adesso viene utilizzato come in qualche modo così previsore affidabile di quello che succederà. Roubini dice: le banche europee, americane, stanno nascondendo le perdite vere, e la comunità finanziaria, anche quella, diciamo, degli osservatori, dei giornalisti, possono aggiungere qualcuno, alcuni lo sa benissimo. Vedremo se vi saranno reazioni a questa dichiarazione. Quello che è certo però oggi è che il gruppo mondiale di società di, la società di revisione a livello mondiale KPMG ha detto: attenzione, guardando i bilanci delle banche britanniche la strada resta molto incerta. Ci sono stati dei profitti nella prima metà dell'anno, come in tutte le grandi banche d'affari anche americane, ma sono stati sostenuti da un andamento strepitoso dell'investment banking. Subiranno questi profitti un netto calo nel secondo semestre. Le previsioni quindi di KPMG non lasciano spazio all'ottimismo. Addirittura ritiene KPMG che le banche retail, cioè quelle che si occupano degli sportelli, dei rapporti con i clienti normali, scivoleranno inesorabilmente verso il rosso nei loro bilanci nei prossimi mesi, come conseguenza di un insieme di fattori negativi: aumento dei crediti inesigibili, cioè gente che non ce la fa più a ritornare i soldi che ha avuto in prestito, incremento dei costi del credito interbancario, quindi aumenteranno leggermente i tassi di interesse, e concorrenza sempre più agguerrita tra le banche a caccia di nuovi correntisti. E questa forse è l'unica buona notizia per noi, che speriamo che la concorrenza voglia dire anche offerte più interessanti per noi clienti, con la prospettiva di una situazione che va a aggravarsi fino almeno alla fine del 2010. Ecco perché Mervyn King, che non è un cantante ma è il governatore della Banca d'Inghilterra, continua a ripetere: attenzione, l'economia britannica è tutt'altro che prossima alla ripresa, e questo peserà sulle banche britanniche. Restiamo all'economia internazionale. Per quello che riguarda le stime sul deficit americano, questa è una buona notizia: sono state tagliate per il 2009 di almeno 260 miliardi, cioè invece che avere un deficit di 1.700 miliardi, un po' di più anche, era 1.800 miliardi di dollari, il deficit dovrebbe essere 1.580 miliardi. Buona notizia, sebbene il deficit americano risulterà nel 2009 pari all'11,2% del PIL. Io ricordo che in Europa, se hai un deficit sopra il 3% del PIL, esci già, o dovresti uscire, ormai non ne parla più nessuno, dai famosi accordi di Maastricht, essere sanzionato. Quindi l'America va a chiudere con l'11,2% di deficit sul PIL. Aumentano anche i sussidi di disoccupazione in America, a indicare che parti, blocchi interi dell'economia americana sono tutt'altro che fuori dalla crisi, e c'è un boom di insolvenze, mutui e pignoramenti nel secondo trimestre dell'anno. Veniamo a casa nostra rapidamente, perché ne parleremo più avanti di TIP, o meglio del fondo management dei capitali, in cui si sono rimodulate anche le varie composizioni tra Tamburi, Carlo De Benedetti, Diego Della Valle, spostamenti vari. Vi dico solo che Nati rileva al 5,7% a questo punto, mentre la TIP di Giovanni Tamburi ha ridotto la sua quota al 12,7%, Della Valle è sceso al 4,2%. Ne parleremo più avanti, così come parleremo dei 15.000 controlli su yacht e auto di lusso, della cassa integrazione, dell'assenteismo e della caccia al nero negli stabilimenti balneari, negli esercizi, diciamo, lunghi litorali. Adesso parliamo, visto che siamo d'estate, fa caldo e comunque si possono anche approfondire i concetti, parliamo di Milano, o come dicono alcuni, di ciò che ne resta. E sì, perché oggi, se su alcuni giornali abbiamo letto che il problema di Milano è avere la divisa per i tassisti e il comune ha convocato gli stilisti, abbiamo anche letto che il mitico Forsyth sta viaggiando intorno a Frederick Forsyth, autore tra i più noti di thriller, di spy stories, sta viaggiando lungo l'Interland milanese a scoprire come mai la vera sede dell''Ndrangheta, Platì la chiamano tra gli intercettati, è ormai in zona Buccinasco, Corsico, tutto quello che è l'Interland milanese. E mai il tema venne più a fagiolo perché poche settimane fa è uscito un libro del collega del Sole 24 Ore, Marco Alfieri, che si chiama La peste di Milano. Non si parla solo di 'Ndrangheta, ma anche si parla anche di Expo, di ritardo, di impasse, di una città bloccata che dovrebbe fare da faro, da guida per i cittadini, ed è bloccata per il paese, scusatemi, invece sembra bloccata in una pastoia di interessi contrapposti che poi si annullano a vicenda. Comunque, Marco Alfieri, buonasera. Buonasera a voi. Titolo forte, dicevo, pesante, nel senso che fa anche riflettere, non nel senso che si legga con fatica, non voglio distruggerti il libro definendolo pesante, anzi, nel senso letterale, pesante. Le pagine sono 170. La peste di Milano, ripeto, non è un tema che riguarda o possa riguardare solo i milanesi. In realtà è un tema su cui devono riflettere tutti gli abitanti d'Italia e in particolar modo quelli del nord del paese. Perché la peste di Milano, che sembra che va anche oltre la provocazione, sentiamo questo passaggio del libro. Milano è malata. E la sua malattia può avere conseguenze molto rilevanti sull'intero sistema Italia. È malata da ormai troppi anni, sfiancata da dinamiche ben lontane dalla sua grande tradizione di riformismo illuminato. Il punto di volta è stato lo shock di Tangentopoli. Da allora, la metropoli che ha guidato la modernizzazione italiana rischia di scivolare in un pantano fatto di inerzia, miopia, ritardi. La città sembra non avere più un vero progetto condiviso sul suo futuro. Le sue classi dirigenti sembrano incartate in una cronica mancanza di strategia. Addirittura, in prospettiva dell'Expo 2015, il tema emergente è il pericolo di infiltrazioni mafiose negli appalti, con la solita coda perversa di cosche che spopolano nell'Interland, presidio del territorio, usura, pizzo e la piaga scandalosa del caporalato e delle morti bianche nei cantieri, spesso pieni di clandestini sfruttati. È una peste? Certo, è una storia di grandi e piccoli fallimenti che questo libro vuole provare a raccontare. Partendo dalle due maggiori e più recenti incompiute ambrosiane, l'Expo 2015 e il flop dell'aeroporto di Malpensa. Entrambe sono perfetta metafora di una classe dirigente incapace di visione. Litigi tra enti locali e lotta per le poltrone in un caso. Una mai risolta divisione del lavoro con lo scalo di Linate e la mancanza di infrastrutture nell'altro. E in entrambi i casi l'ombra di Roma ladrona c'entra davvero ben poco. L'incapacità di missione della politica, a ben guardare, è la vera malattia della città, originata appunto dal cratere di Tangentopoli. È come se l'antipolitica uscita da quel biennio tragico non la smettesse più di diffondere i suoi germi. A sinistra ha vinto la rimozione della grande tradizione di riformismo municipale. Basti vedere l'inconsistenza dei candidati sindaci dal 93 ad oggi, tutti irrimediabilmente sconfitti, tutti incapaci di fare i conti con la modernizzazione della città e la sfida del berlusconismo. A destra, l'efficientismo di facciata, falso manageriale, si è rivelato per lo più sterile e di poca sostanza. A dare la linea è piuttosto la cena del lunedì ad Arcore, a casa Berlusconi, che da grande feudatario convoca in villa i vassalli, trattando la città come se fosse il giardino di casa. La conseguenza è che il governo cittadino è oggi in mano alle lobby dei grandi feudatari locali, dai potenti commercianti alla compagnia delle opere, dalle coop ai grandi costruttori, dai signori della fiera a quelli della sanità privata. La prova di questa deriva, anzi le prove, per esempio l'occasione persa della riconversione delle aree dismesse, dove ha vinto la logica del riempire i vuoti. In questi anni Milano ha avuto la grande occasione di poter sfruttare una dimensione industriale imponente per ridisegnare il suo volto e la sua urbanistica secondo nuovi bisogni e nuove funzioni, ma finora l'ha sostanzialmente sprecata. Sullo sfondo c'è una città sempre più vecchia, provinciale, poco vissuta da migliaia di city users, che la consumano di giorno per poi fuggire la sera o nei weekend. C'è il declino della creatività, paradossale in un territorio vivace e produttivo, ma dove la parola cultura continua a far rima solo ed esclusivamente con scala. C'è l'incapacità di pensarsi come grande metropoli multietnica, neanche fosse una media cittadina di provincia spaventata dai volti scuri degli immigrati. Milano è ancora ricca di talenti straordinari, ma alla ricerca disperata di un ricambio generazionale all'altezza dei tempi, per ripartire e per non morire di peste. Allora, Marco Alfieri, diciamo che non le hai mandate a dire le cose. Milano è malata, una città in mano, diciamo, a lobby dei grandi feudatari locali, Valvassori, l'incapacità della sinistra da un lato, della destra, di ripensarsi in chiave collettiva, in chiave moderna. Dov'è il deficit di capacità di pensare anche la città? Dov'è che poi si concretizza? Nella ex area Falche, ma tu citi anche la Bicocca, la Fiera. Sì, indubbiamente hai ragione, perché ricordiamoci che a Milano ci sono milioni di metri cubi di aree ex industriali che da un quindicennio a questa parte, con il passaggio, diciamo così, dall'industria manifatturiera novecentesca al terziario, si sono appunto liberate, e nella coscienza collettiva della città l'idea era quella appunto di utilizzarle per rifunzionalizzare la città in chiave terziaria, inserendo nuovi servizi per l'area vasta milanese. Se noi guardiamo gli ultimi 15 anni, a partire appunto dal caso che citavi di Bicocca, vediamo che in realtà gli interessi privati, ovviamente legittimi, di grandi gruppi spesso hanno fatto premio sulla necessità di rifunzionalizzare la città in chiave pubblica, cioè dove la politica, le classi dirigenti avessero la capacità di dare un indirizzo appunto agli interessi di queste aree private. Sì, allora diciamo alcune cose, perlomeno a mio avviso. È chiaro che l'imprenditore privato, poi uno si può chiamare Olivetti, si può chiamare Rizzoli, ci sono altri casi, ma insomma, in generale l'imprenditore privato persegue la massimizzazione all'interno delle regole e delle leggi del suo interesse e del suo utile, per cui che l'imprenditore dell'edilizia voglia spingere per costruire grattacieli piuttosto che parchi, ci sta tutta, è inutile fare le verginelle o le mezze vergini, peggio ancora. Il problema è che manca la controparte politica, cioè se la controparte politica è sempre espressione o comunque della stessa area che culturale oltre che economica, che dovrebbe andare a non contrastare, ma su cui dovrebbe esserci un atteggiamento dialettico, perché la politica rappresenta tutti, rappresenta l'imprenditoria ma rappresenta anche i cittadini. Beh, è chiaro che poi la città la fanno gli imprenditori, non più gli eletti dei cittadini. Il punto è proprio questo, e cioè con la fine, citavi prima giustamente Tangentopoli, che è un fenomeno ovviamente nazionale, un fenomeno, forse l'ultimo grande fenomeno di cui hanno parlato i giornali stranieri in maniera continuativa, e però, come dire, è anche un fenomeno che fisicamente è successo a Milano, quindi una classe dirigente, le culture politiche del Novecento che vengono spazzate via, e quindi anche si è buttato un po' il bambino con l'acqua sporca, cioè una classe dirigente cittadina è stata spazzata via. E cosa è successo? È successo che, come giustamente dicevi, non c'è più un argine, non c'è più un filtro, una controparte capace di orientare gli interessi privati, come ho detto, assolutamente legittimi. E dopodiché succede questo, che negli ultimi 15 anni a Milano non si è mai capito, o si tende a non capire, dove finiscono, diciamo così, gli interessi privati e iniziano quelli pubblici, perché spesso, diciamo così, interessi privati sono interfaccia di quelli politici, e spesso le cordate, diciamo così, private, spesso appunto giocano in prima persona la politica. A me personalmente, come piccolo elemento così aneddotico, ha molto impressionato che nel progetto dei tre grandi grattacieli City Life, quello dei grattacieli fatti da tre diversi architetti, quella che sarà l'ex area fiera nel centro cittadino, dopo la variazione rispetto al progetto originale, come sempre ha previsto meno aree verdi per aumentare la volumetria della parte edificabile, come se questa città, che conosce da anni, da decenni, un esodo dei residenti, non migliaia e migliaia di persone che vogliono qui trasferirsi a vivere, avesse bisogno disperato di altri metri cubi a discapito di un verde che è eccessivo nella città. A me non sembra, avendo anche un bambino piccolo, che il problema di Milano sia la mancanza di metri cubi a causa di un eccesso di verde, un eccesso di parchi, un eccesso di aree pedonali. Ma vabbè, e anche questo però dice lunga sulla scarsa lungimiranza. La sensazione è, tornando alla classe politica, è che fino alla Tangentopoli ci fosse una classe politica lombarda o milanese che puntasse a utilizzare Milano come quasi alternativa alla gestione romana e dicesse quello che noi sappiamo realizzare qua poi possiamo realizzarlo anche su base nazionale. Se ho ben capito il tuo ragionamento, è venuto meno questa idea, questa vocazione nazionale della classe politica milanese. Assolutamente sì. Milano tendenzialmente nel Novecento è sempre stata una città dialettica nei confronti di Roma e però capace di offrire modelli emulativi al resto del paese, no? Era un po' la città laboratorio in cui succedevano tanti fatti, in cui la politica era importante ma non era tutto. Al suo meglio tendenzialmente accompagnava i grandi processi, c'era una grande borghesia industriale, manifatturiera e anche illuminata che aveva una coscienza civile, c'era un'aristocrazia operaia, c'erano i circoli, c'era insomma tutto quel che di meglio si trovava di europeo in Italia succedeva a Milano e ovviamente si giocava in dialettica con Roma. Oggi tutto questo tendenzialmente sta venendo meno. Roma, dicono alcuni osservatori, io tendenzialmente questo non lo saprei dire perché non ci abito, sta diventando spesso più interessante di Milano per molti fenomeni, non è più solo la città della politica, e Milano a sua volta invece che essere il traino che porta il paese in Europa rischia un po' di sprofondare, diciamo così, in questa palude mediterranea. Sì, e anche di essere relegata a un ruolo così di luogo di scambio di servizi, scambio finanziario, scambio anche di contratti, scambio di valore aggiunto, però un luogo una piazza commerciale in cui poi non si risiede, e anche tu fai notare quale sia poi la pesantezza dell'esodo, diciamo, tra chi vive a Milano e chi lavora a Milano. La differenza è impressionante. Restiamo ai temi legati anche all'economia e alle scelte, perché diciamo questa incapacità non ce l'abbiamo, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, non ce l'abbiamo con nessuno in particolare. È innegabile però che una visione alta della città e diciamo, il piano urbanistico ne è in qualche modo l'oggettivazione, sia mancata in questi anni, inutile continuare a raccontarsi storie. Se tanto mi dà tanto, cioè se in questi anni qualunque grande iniziativa di carattere urbanistico ha avuto come primo, delle volte anche unico, ahimè, obiettivo la massimizzazione del profitto, perché la politica non era una vera controparte, era diciamo in affinità quantomeno concettuale, e mi fermo qui, con i costruttori, che cosa dobbiamo temere dall'Expo? Perché l'Expo già ha incamerato il primo insuccesso, cioè un anno per decidere chi dovesse dirigerlo. Si è vista una cosa paradossale con il sindaco di Milano che teneva la linea del Piave su un candidato, il ministro dell'economia Tremonti che non voleva questo candidato e la Lega nemmeno. Si è arrivati alla fine a una soluzione di compromesso, ma un anno è stato buttato via. Che cosa si rischia con l'Expo? E però, per non sembrare solo distruttivi, quale opportunità rappresenta in questo momento l'Expo se ben giocata nei prossimi 4 anni o 5? Ma diciamo che, come giustamente hai detto, si è già perso un anno, 13-14 mesi più o meno, per mettersi d'accordo sulla governance societaria. Cioè credo una cosa che non sia mai successa, anche perché tendenzialmente la filiera politica era sostanzialmente allineata, cioè tranne la provincia di Milano, che però è stato un attore che era in quel momento governata da centrosinistra, che però era un attore diciamo così minoritario nella grande partita dell'Expo, tutta la filiera era allineata sul centrodestra, e nonostante questo, o forse anzi soprattutto per questo, c'è stata una lotta al coltello ed una guerra intestina, tra l'altro esplosa, come dire, in mondovisione, senza alcun argine, senza alcuna sobrietà. Quindi io credo e spero che, come dire, il peggio di sé la classe dirigente di Milano l'abbia già data, e oggi si sia nella possibilità di voltare pagina. Cosa può diventare l'Expo? Ma certamente, al di là della retorica sul volano per il resto del paese, i punti di PIL, i posti di lavoro che spesso si è enfatizzato in questi mesi anche per occultare un po' le difficoltà sulla difficile gestazione della governance, credo che possa essere tendenzialmente un modo per mettere in rete le peculiarità e anche la varietà dei territori italiani, soprattutto del nord Italia, con Milano come diciamo così testa d'ariete. Se si gioca in rete, l'Expo può diventare un fattore importante. Cioè la domanda da fare sostanzialmente, un po' tremontianamente, cioè facendo verso a quello che dice il ministro Tremonti, è perché mai un cinesino dovrebbe venire a vedersi l'Expo di Milano nel 2015. Quindi va trovato qualcosa di innovativo che permetta ovviamente non solo di venire a Milano, ma di utilizzare Milano come rampa di lancio per poi visitare il resto del paese.

per quanto riguarda i cantieri dell'Expo e per quanto riguarda anche i cantieri per esempio dell'alta velocità ferroviaria, dove già secondo alcune indagini della magistratura sono stati trovati, diciamo così, sono state verificate delle infiltrazioni molto, molto robuste, molto profonde. Il tema vero, il rischio vero è che, come dire, l'Andrangheta, che appunto la fa da padrona nella zona di Milano, ha già fatto tendenzialmente un salto di qualità, e cioè non ha più neanche bisogno di sparare o di essere presente in maniera pervasiva e ossessiva sul territorio. Lo è, ma in maniera discreta, perché oggi, come dire, ha talmente un flusso di denaro così cospicuo e così robusto che gli arriva dal narcotraffico, che ha semplicemente la necessità di investire questi soldi in attività legali, apparentemente legali. Quindi è una sorta di malavita, diciamo così, dalla quasi ghost, quasi invisibile, e quindi ancora più pericolosa. E in tempi di crisi è in grado sostanzialmente di orientare l'economia e di strozzare, come giustamente dicevi, l'imprenditoria sana. Quindi, diciamo così, anche qui è una peste che piano piano rischia di espandersi e di corrodere appunto un organismo che è tendenzialmente sano. E il rischio vero è, come dire, culturale, cioè è spesso, proprio perché qui si parla con un accento diversa e magari non si spara per strada, c'è una sottovalutazione del fenomeno, del problema da parte delle classi dirigenti. Si tende un pochino a voltarsi dall'altra parte, a fare spallucce davanti alle denunce, quasi che fossero, come dire, una sorta di incitazione al catastrofismo. In realtà non è così. Ci sono anche ultimi report molto significativi dell'ONU che ci dicono che ormai la mafia sta entrando anche nelle banche di Eurolandia, e quindi con processi assolutamente trasparenti in apparenza, e quindi ancor più sottili e ancor più difficili da sconfiggere, se la classe dirigente e le istituzioni in senso lato non pongono rimedio. E torniamo, nel concludere questo approfondimento, al tema iniziale, cioè l'assenza, forse troppo forte, ma la debolezza della classe politica poi non permette di gestire alcuni processi, li lascia in mano a chi dovrebbe essere solo esecutore di questi processi, quindi anche controllato, e invece finisce per diventare anche il controllante di se stesso. Resta sullo sfondo questa idea, nel libro di Marco Alfieri, La peste di Milano, di una città, lo ripeto, lo dico anche a chi scrive, nessun rimpianto per la Milano da bere di Craxi, che però, voglio dire, andrebbe analizzata in maniera corretta, non è stata solo tangente, è stata anche progetti di ampio respiro, nessuna autosoluzione, nessun revisionismo storico, però attenzione che indubbiamente una Milano in cui le parti che, ripeto, si chiamerebbero di classe dirigente rinunciano alla visione politica per limitarsi a una visione più imprenditoriale, manageriale, da amministratore di condominio, se va bene, non si va molto lontano in questo modo. Lo dico da città che Milano ha ospitato negli ultimi anni, ma da Veneto, una delle accuse che fu fatta, tu hai scritto un bellissimo libro proprio sul Nord-Est, così mi ricollego anche al tuo libro precedente, e sul perché la sinistra non vincerà mai nel Nord-Est terra ostile, casa editrice Marsilio. Il Nord-Est ha pagato per decenni la sua non voglia di esprimere una visione politica, che poi lo ha portato storicamente a essere relegato, nonostante la forza produttiva ed economica, nella parte bassa delle scelte, delle priorità della politica. E questo sentirsi escluso dalle grandi decisioni era anche colpa degli stessi veneti, che per anni hanno detto: no, sono troppo impegnato a lavorare, non posso occuparmi di politica, e quindi di politica si occupava qualcun altro al posto loro. Con questo, diciamo, volo, spero non troppo pindarico, ringrazio Marco Alfieri. Il libro si chiama La peste di Milano, casa editrice Feltrinelli. Grazie a voi. E adesso, grazie Marco, passiamo alla borsa. Ma ancora qualche risposta al 349-238-6666. Non vi dico quanti messaggi in sostanza recitano questo assioma, ma insomma, perché non guardate quello che fa Roma, Napoli, la Calabria, addirittura Modena, Reggio Emilia, cosa venite a rompere le scatole su Milano? Allora, mettiamola così, è l'amore per Milano, l'ho appena ricordato, che anch'io sono ospite e sono stato ospitato da questa città, che ti porta a mettere in evidenza, a criticare alcune derive, alcune debolezze, alcune incapacità di tornare ad essere, ad avere un ruolo di leadership nel paese, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di visione e di progetto. Se hai un problema alla macchina e qualcuno te lo fa notare, mi sembra una soluzione veramente da struzzo, senza N, dire: eh beh, ma anche le macchine degli altri hanno un problema al carburatore, hanno le gomme gonfie. Io la penso così. Di nuovo in diretta, non si placano i vostri sms al 349-238-6666, tutte le critiche sono buone, ben accette, una però no, guardate che dei problemi del nostro mezzogiorno, delle infiltrazioni, della camorra, dell'andrangheta, della mafia, delle inefficienze, degli sprechi, ebbene a queste cose abbiamo dedicato decine di puntate, ma immagino che alcuni di voi le abbiano sentite, sulla sanità, sulle inefficienze dell'amministrazione pubblica, sulla ipotesi di dare altri fondi o di invece stimolare l'economia del mezzogiorno col federalismo fiscale, per cui se una volta tanto si critica Milano non è che poi si può sempre fare, diciamo così, i rigorosi con i problemi degli altri, non guardare mai in casa propria. Comunque la borsa più 1,2% Milano, più 1,6% Parigi, più 1,5% Francoforte, più 1,3% Londra, l'America guadagna adesso lo 0,3% sul Dow Jones e lo 0,7% sullo Standard & Poor's, euro a quota 1,4230. Tra i titoli che vanno particolarmente bene, Buzzi Unice in più 4,78, Autogrill più 3,6 e ancora Prismian 3,6, Mondadori più 3,1, Estima Electronics più 2,7 come Telecom Italia, il 2,5 lo guadagna Fondiaria Sai, il 2,2 Geox e Campari, il 2% Finmeccanica, ma anche le Generali e Tenaris, l'1,80% il rialzo di Unicredito, Italcementi e Alleanza Assicurazioni. Perde Snam, mezzo punto percentuale, e anche Terna, Mediobanca, meno 0,2%. Paolo Paronetto, Radio Colle, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Buzzi Unicem. Sì, Buzzi Unicem è stata per tutta la seduta la migliore del listino e già ieri è andata bene grazie a un report positivo della banca d'affari Nomura, ma oggi è tutto il settore costruzioni europeo a fare bene grazie ai conti della Svizzera Holcim. I conti del gruppo sono stati migliori delle attese nonostante il calo dell'utile netto e soprattutto il gruppo si prevede per il 2010 un scenario migliore dell'attuale, quindi queste previsioni hanno riportato fiducia sul comparto costruzione, che ovviamente è uno dei più legati all'andamento generale del ciclo economico. Oggi a livello europeo il sottoindice di settore ha guadagnato il 3,3% circa e così tutti i titoli principali sono stati comprati, oltre a Buzzi, ricordiamo a Piazza Affari Italcementi che ha chiuso in rialzo dell'1,8% e soprattutto Cementir che fuori dal FTSE MIB ha guadagnato oltre il 5%. Su Cementir ricordiamo che c'è anche un'ipotesi riportata oggi dal Sole 24 Ore, che il gruppo possa entrare nel riassetto del comparto europeo, potrebbe essere interessato a Cementir ad acquistare alcuni asset del gruppo tedesco Heidelberg. In effetti appunto va bene il settore costruzioni, appunto a Zurigo addirittura il 6%, altri titoli, un po' di rotazione sui bancari mi sembra, ma questo non siamo nuovi. Telecom Italia si è risvegliata sopra l'euro per azione, più 2,60%. Sì, esattamente, per Telecom in una giornata, in un periodo in cui è abbastanza privo di spunti, oggi l'attenzione è tornata grazie a un report degli analisti di Credit Suisse. Credit Suisse, pur confermando un giudizio di underperform su Telecom, ha alzato il target price, cioè l'obiettivo a cui potrebbe arrivare il prezzo delle azioni, a 1,1 euro dai precedenti 0,8. Secondo gli analisti, gli analisti hanno alzato le loro stime sugli utili per azione di Telecom nel periodo 2010 e 2011 e secondo Credit Suisse, nonostante nel terzo trimestre i risultati del terzo trimestre dovrebbero evidenziare una più debole crescita dei ricavi nella telefonia mobile, secondo Credit Suisse il quarto trimestre potrebbe portare a un miglioramento dei margini di redditività sul mercato italiano, da qui l'aumento del prezzo obiettivo e quindi il buon andamento di Telecom in borsa che ha chiuso a più 2,6%. Ancora sui titoli, noto che assieme agli utili delle grandi banche d'affari che sono tornati nel secondo trimestre, sono tornati anche i report delle stesse banche d'affari che avevano contribuito a creare, diciamo, la peste, questa volta quella finanziaria. Credit Suisse è solo l'ultimo caso, ma va bene così, sono anche questi segnali. Le informazioni per chi in viaggio tra un paio di minuti, vorrei ancora un commento su altri titoli, nel caso specifico la vicenda Management e Capitali, che oggi in borsa ha ceduto se ho ben visto, il 3,4%, ma c'è anche, visto che la Consob ha pubblicato la mappa dell'azionariato, una ridefinizione dei vari pesi. Sì, esattamente, oggi dopo i balzi delle ultime sedute il titolo, come ricordavi tu, ha perso circa il 3,5%, chiudendo a 0,1728 euro. Si è un po' quindi sgonfiata la speculazione che nelle ultime sedute scommetteva su possibili contro OPA o rialzi delle offerte già presentate, e a innescare questa tendenza è stata la notizia riportata prima dal Sole 24 Ore e poi confermata appunto dall'aggiornamento delle partecipazioni sul fatto che Giovanni Tamburi, che è uno dei due che hanno presentato un'offerta pubblica di acquisto sulla società, il 17 agosto ha venduto azioni management e capitali. Lo ha fatto attraverso un'altra società, cioè Second Tip, e non attraverso la Tip, che è quella che ha presentato l'OPA, ma ovviamente il mercato ha visto questa mossa come un possibile disimpegno dalla possibile acquisto di MCI, e quindi sul fatto, come una possibile conferma del fatto che Tamburi non intende rivedere all'avviato il proprio prezzo offerto, e quindi si è un po' sgonfiata questa speculazione e ha portato il titolo in ribasso. L'America sta guadagnando, ripeto, lo 0,3%, grazie a Paolo Pornetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. Dopo le informazioni per chi è in viaggio andiamo a scoprire con la Guardia di Finanza quali e quanti accertamenti ha fatto sui luoghi balneari. Ancora una risposta al 349-238-6666, ma questo Marco Alfieri, che sa tutto chi è un collega bravo del Sole 24 Ore. E ancora, per quello che riguarda la trasmissione, l'approfondimento su Milano, riascoltatela su internet, e poi a chi scrive che era una trasmissione orientata politicamente, se trovate una dichiarazione a favore del centrodestra, a favore del centrosinistra, in cui si dica se ci fossero altri, mi fate un favore, lo scrivete, perché io non ne ricordo un passaggio. Era una testimonianza dei problemi di una città e di una incapacità, a partire dalla classe politica, diciamo dalla classe dirigente complessivamente data, di pensare a un futuro un po' più alto rispetto al semplice piano regolatore per quella che dovrebbe essere la capitale economica, e vogliamo anche morale, del paese. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, qualche giorno fa ci eravamo occupati dei dati della Guardia di Finanza, che segue molto bene l'attualità anche come ufficio di comunicazione, i dati sull'evasione e l'elusione transfrontaliera, cioè i miliardi portati all'estero, e ripeto, molto d'attualità visto quello che poi è successo tra UBS e il governo americano, che molti hanno letto come la fine dell'inviolabilità del segreto bancario svizzero, e a mio avviso è proprio così, perché giro rigira, la Svizzera può dire quello che vuole, ma ormai insomma nessuno va a mettere più soldi lì, sapendo che se poi un governo fa la voce grossa devi dare i nomi e i numeri dei conti correnti. Adesso, in periodo estivo, di evasione e soprattutto, non perché l'evasione sia più alta d'estate, per carità, di lamentele che riceviamo anche noi di molti ascoltatori che dicono mai ricevo uno scontrino al bar o al ristorante del bagno, dichiarazioni irreali, è uscito anche il dato sui controlli a caccia del nero in vacanze, i controlli evasi, 36 milioni di redditi, 1000 verifiche nei confronti delle attività tipiche della stagione estiva. Saluto di nuovo e ringrazio il colonnello Stefano Screpanti, che è capo ufficio della tutela entrate al Comando Generale della Guardia di Finanza. Buonasera, colonnello. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. La facciamo lavorare anche per radio questa settimana, ma siete voi che ci fornite il materiale. Allora, avete controllato 256 alberghi e affittacamere, 237 bar, ristoranti e pizzerie, 204 bar e gelaterie, 181 stabilimenti balneari, 47 villaggi turistici e 26 campeggi e anche 24 discoteche e locali da ballo. Prima domanda, poi veniamo a cosa avete scoperto, è sui numeri. Cioè, i 181 stabilimenti balneari su 6.500 sono il 2,8%, 73 villaggi turistici e campeggi su 2006 siamo anche qui al 2,8%. La domanda che è già arrivata, tanto lo sapevo, è: ma non sono un po' pochi? Ben venga l'attività, ci mancherebbe, bravi, complimenti, ma non sono un po' pochi? Beh, guardi, intanto ovviamente parliamo di attività esclusivamente sulle località balneari, per di più quelle maggiormente interessate da flussi turistici. Poi, ad esempio, per gli stabilimenti balneari, il dato della banca dati degli studi di settore del periodo d'imposta 2007 parla di 5.600. Noi, se facciamo la somma delle verifiche e dei controlli svolte più di quelli toccati per il rilascio di scontrini ricevuti più quelli toccati per il controllo sul lavoro nero, arriviamo a una cifra di 470, siamo intorno all'8% da qui alla fine dell'estate, contiamo di arrivare a numeri tali che arrivano sul 15%, quindi se si conferma questa tendenza, che è un po' quella della stagione estiva dello scorso anno, teoricamente si può dire che nell'arco di 2 anni si controlla circa il 30% degli stabilimenti, nell'arco di 4 anni del 90%, ma in realtà occorre tenere presente che i nostri controlli non sono indiscriminati, sono mirati nei confronti di quelle attività che in base a un'analisi di rischio, in base a un'attività di intelligence che i nostri reparti possono ben fare sul territorio, perché sono presenti presso i territori dove questi operatori lavorano, appunto sono attività mirate in base ad obiettivi appunto ricercati e predeterminati. In aggiunta avete anche pubblicato la notizia che avete fatto quasi mille controlli, cioè avete verificato quasi 1000 possessori di yacht di lusso per 14.632 rilevamenti, ma comunque i possessori, gli yacht verificati sono 960, e avete controllato 13.600 persone trovate alla guida di auto di lusso, perché per verificare se c'è una sproporzione fra i beni posseduti e i redditi dichiarati in misura superiore ai 100.000 euro. Allora andiamo a quello che avete scoperto, intanto partendo dal nero in vacanza. Come si fa a operare con, cioè, 44 attività, perché insomma, uno quando opera nel settore del turismo è abbastanza visibile, c'ha i clienti, c'ha l'insegna, al ristorante, agli ombrelloni, 44 erano evasori totali, cioè non esistevano per il fisco. Purtroppo il dato è questo, sono fenomeni che ci sono degli operatori che, pur operando alla luce del sole, non presentano dichiarazioni, magari rilasciano la fattura, rilasciano anche lo scontrino, ma semplicemente omettono di presentare le dichiarazioni. Abbiamo parlato di queste attività perché appunto queste sono quelle controllate nel corso dell'estate, ma ciò accade anche in altre attività che sono evidenti, sono palesi. C'è chi sceglie di non dichiarare nulla, correndo il rischio di essere scoperto, forse confidando su una bassa possibilità di essere scoperto. È bene che tutti sappiano che queste possibilità sono aumentate negli ultimi anni, proprio grazie alla tecnologia, alle banche dati, alle analisi di rischio, alle attività informative che, come dicevo prima, permettono di individuare coloro che probabilmente evadono e quindi possono essere più facilmente controllati. E allora, la cosa che più è risultata a suo avviso, al di là degli evasori totali, degna di nota in un'invasione complessiva che avete stimato in 36 milioni di euro e più 13 milioni di IVA evasa, qual è? La situazione... Cioè c'è un miglioramento, la domanda che arriva, ma insomma, ho capito, i controlli sì. Ci sono, ma c'è un miglioramento nell'attività, per cui notate che un po' più anche chi non è evasore totale, ma insomma è un po' più in regola, oppure no, c'è chi continua a puntare come sul superenalotto, tanto non mi beccano, e poi lo Stato riscuote il 5% dello scovato. Prego. Ma effettivamente segnali confortanti emergono, perché comunque i dati sono significativi, ma perché significativa è la presenza ispettiva. Quindi riteniamo che siano dati tutto sommato coerenti con una attenzione operativa da parte della Guardia di Finanza, sicuramente forte, che viene intensificata in un periodo in cui queste attività emergono, aumentano il loro giro sì. d'affari, e quindi è anche più logico, più agevole individuarle sul territorio. Quindi sono dati che tutto sommato possiamo ritenere coerenti con un'intensificazione operativa forte, con un'attenzione che è sempre elevata. Ecco, visto che abbiamo fatto la prima parte della puntata sul ruolo anche, ahimè, che l'Andrangheta svolge a Milano, e voi avete controllato oggi auto di lusso, non voglio unire le due cose, ma insomma di solito chi opera nell'Andrangheta tende a essere anche un evasore. Se voi mi fermate a bordo la mia nota Ferrari che tengo qua perché è già da sole 24 ore o sul mega yacht che ho in porto, che cosa andate a verificare rispetto alla mia dichiarazione dei redditi? Perché potrebbe avermelo regalato mio padre o mia madre. Ecco, la sua domanda mi consente appunto di spiegare come funziona questo piano. Sì, abbiamo un minuto purtroppo, colonnello, però prego. Molto rapidamente, le situazioni di grande sproporzione fra redditi dichiarati e beni di lusso posseduti vengono sicuramente approfondito sul piano fiscale, nel senso sia con segnalazione all'Agenzia delle Entrate sia con verifiche fiscali, ma prima di questo c'è un vaglio da parte del nostro reparto sullo spessore eventuale criminale del soggetto, se risulta collegato con ambienti criminali, se risulta avere precedenti penali o di polizia significativi, c'è una valutazione su questo profilo se del caso si attivano le indagini di polizia giudiziaria o secondo gli strumenti della normativa antiriciclaggio. Beh, questo vuol dire che appunto il controllo non è semplicemente sulla Ferrari, ma è su tutto un insieme di dati incrociati, come abbiamo spiegato già la volta scorsa per quello che riguarda l'evasione da spallone, per usare un'immagine figurata che purtroppo non è più così, e cioè chi porta i soldi all'estero. Grazie anche per oggi al colonnello Stefano Screpanti, capo ufficio tutela delle entrate. Grazie del comando generale della Guardia di Finanza. Avete preso un colpo di sole, l'impasse, la criminalità a Milano, poi i controlli fiscali. No, non abbiamo preso un colpo di sole, la solita linea del programma. Ci occupiamo di economia in vari modi e cercando di uscire anche dai luoghi comuni dove il male sta sempre a casa degli altri. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto un augurio di buona serata.